2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 e radio24.it. Anche in questa puntata abbiamo un sacco di argomenti per approfondire alcuni trend tecnologici che stiamo commentando in questi mesi e in questi anni, anche perché alcuni dei trend tecnologici hanno durate prolungate nel tempo, non è che scoppiano velocemente. Oppure succede come per i popcorn, ci sono alcune tecnologie che si sviluppano molto lentamente e poi ad un certo punto esplodono, cioè si diffondono molto rapidamente. Alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Come avevamo anticipato la scorsa settimana, Vodafone ha lanciato la propria offerta di video in streaming on demand. Parliamo di Vodafone Italia. Questo nuovo servizio si chiama Vodafone TV o TV ed è fondamentalmente un aggregatore di altri servizi in streaming riservato a chi ha i servizi in fibra di Vodafone, che non sono solo quelli con la fibra direttamente nelle case, ma anche quelli che hanno la fibra che va al cabinet. Dunque, un servizio che costa 10 euro ogni 4 settimane, cioè questa purtroppo non è nuova, però è una cattivissima abitudine degli operatori telefonici che dagli abbonamenti mensili sono passati agli abbonamenti ogni 4 settimane, ha iniziato uno e gli altri a pesce, tutti dietro, allora, non per tutte le offerte, però molte offerte sono diventate ogni 4 settimane. Comunque, chiuso questa parentesi, questo è un servizio che va, diciamo, in concorrenza con altri servizi di video in streaming, ad esempio con TeamVision, perché così come accade per TeamVision, anche per Vodafone TV esiste un decoder esterno da utilizzare per vedere i prodotti offerti. Allora, da notare che Now TV, che è l'offerta online di Sky, che normalmente non è in HD, è visibile su internet senza nessun decoder, ma viene integrata all'interno di Vodafone TV, ma è in alta definizione in questo caso. Quindi, visto che in rete si discute della possibilità o meno di mettere Now TV in HD, e quindi tecnicamente tutto è possibile. Digital News. Parliamo di Nokia, che ha fatto causa ad Apple in 11 paesi in Asia, Europa e Stati Uniti per aver violato 40 brevetti di proprietà relativi a display, l'uso dell'antenna, le interfacce utente e i codec video. Comunque molte tecnologie, Nokia è una tra le aziende che nell'ambito della telefonia mobile ha più brevetti al mondo. Nokia sostiene di aver fatto causa dopo anni di trattative per cercare un accordo e però alla fine hanno perso la pazienza. Digital News. Il governo norvegese punta a fare approvare entro la primavera una legge che permetta di eseguire test di auto a guida autonoma sulle strade della Norvegia. La Norvegia, che è uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo, sta però da tempo guardando a nuovi mercati come quello delle auto elettriche, perché sa benissimo che prima o poi il petrolio finirà, o comunque l'era del petrolio è destinata a finire, e già vediamo alcuni segnali di declino. Allora, guida autonoma e auto elettriche sono ormai due tecnologie che vanno insieme. Non è un caso che la Norvegia sia uno dei più importanti mercati di Tesla, che oltre alla propulsione elettrica è un pioniere della guida autonoma. Digital News. E a proposito di guida autonoma, la Cina punta a definire uno standard per le comunicazioni fra veicoli. Ci sono due tecnologie che si stanno definendo in questi anni. Una riguarda le comunicazioni tra i veicoli, vehicle to vehicle, e le comunicazioni tra il veicolo e l'infrastruttura, vehicle to infrastructure. Allora, la Cina punta a definire uno standard nel 2018 per le auto che quindi verranno costruite qualche anno dopo, dal 2020 in poi, sempre per quanto riguarda il mondo della guida autonoma, perché ci sono investimenti e annunci ogni settimana. C'è veramente un settore, quello dell'automobile, che si sta velocemente e rapidamente trasformando. Allora, sempre in questo ambito, BlackBerry ha annunciato che investirà 75 milioni di dollari nei prossimi anni, non ha detto quanti anni, comunque, per sviluppare tecnologie per la guida autonoma. E uno potrebbe domandarsi, ma che cosa c'entra BlackBerry con le automobili? Allora, dovete sapere che l'azienda possiede proprio una divisione che si chiama QNX, e QNX è un software che già oggi viene utilizzato nei sistemi di infotainment delle automobili, un sistema molto affidabile, molto utilizzato da molti produttori, e sulla base di questo software ovviamente BlackBerry punta a realizzare tecnologie per l'auto a guida autonoma da vendere ai produttori di automobili o a produttori di soluzioni per l'auto a guida autonoma nei prossimi anni. La notizia che ho dato su Vodafone TV è importante, interessante, non tanto in sé come annuncio in sé, ma per lo scenario, per il mercato di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di 2024, quindi vi invito a riascoltare via podcast attraverso il nostro sito internet o attraverso la nostra applicazione per smartphone, oppure attraverso le tante applicazioni che esistono sul mercato che potete scaricare sul vostro smartphone per ascoltare la nostra trasmissione in podcast. E vi ricordo che tutte le nostre interviste nella versione podcast sono in versione integrale. Adesso parliamo di pagamenti elettronici, di pagamenti digitali, un tema di cui ci siamo occupati varie volte a 2024, un tema molto interessante, molto affascinante, ci sono molte evoluzioni. Sapete che una delle cose che mi piace di più ricordare sono tutti quei sistemi nuovi che si svincolano ed escono dai circuiti delle carte di credito. In questo modo si abbassano i prezzi, si basano sulla connessione tra i conti correnti. Ad esempio il più interessante sicuramente è Satispay, che è un sistema italiano che si sta diffondendo soprattutto nel nord Italia. Comunque è un sistema di cui abbiamo parlato e magari riparleremo a 2024. Però a proposito di pagamenti, allora, per la prima volta in Italia nel settore dei trasporti, in modo particolare su una linea ferroviaria particolare di cui parleremo tra poco, allora è permesso il pagamento del biglietto direttamente al tornello di ingresso avvicinando una carta di credito o addirittura lo smartphone ad un apposito lettore contactless senza contatto. Esistono ormai milioni di carte contactless che hanno un chip NFC integrato, lo si può già fare in molti POS, basta avvicinare la carta e si esegue il pagamento. Allora, questo servizio è stato attivato per la prima volta su una linea ferroviaria, in particolare sul Malpensa Express, che collega alcune stazioni della città di Milano con l'aeroporto. Come funziona? Molto semplice, però è una novità sicuramente interessante e per questo ne parliamo 2024. Saluto l'amministratore delegato di Trenord, Cinzia Farisè. Benvenuta 2024. Grazie infinite a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Partiamo proprio dalla novità che avete lanciato su una tratta, dicevo, particolare, perché si tratta del Malpensa Express, un treno che collega la città di Milano con l'aeroporto di Malpensa. In estrema sintesi, qual è la novità che avete lanciato? La novità è un sistema di pagamento innovativo, noi le chiamiamo carte contactless o smartphone, che consentono di viaggiare sul Malpensa Express, quindi sul servizio aeroportuale che collega la città di Milano dai tre hub di partenza, quindi Cadorna, Centrale e Garibaldi, verso l'aeroporto di Malpensa, T1 e da pochi giorni anche il Terminal 2. Questo sistema prevede la possibilità di non acquistare il biglietto, quindi di salire a bordo treno semplicemente avvicinando la carta di credito o lo smartphone a un lettore elettronico che è in dotazione presso alcuni diciamo, dei punti di partenza sia in aeroporto che nelle tre stazioni lombarde. Quindi automaticamente, avvicinando la carta di credito, il sistema capisce che io sto entrando e immagino poi bisogna far passare la carta di credito anche in uscita dalla stazione. Assolutamente, diciamo all'ingresso sì, all'uscita no, quindi ci sono dei varchi che sono dedicati, non è possibile entrare da tutti i tornelli, Alcuni varchi sono stati equipaggiati con questo sistema, hanno un lettore elettronico in dotazione e quindi questo servizio contactless consente al viaggiatore cliente di Trenord di avvicinarsi a questo sistema a meno di 4 cm di distanza e il passaggio automatico, il tornello si apre. Cioè, quindi se una fretta non deve perdere tempo a prendere il biglietto, insomma. Non deve perdere tempo per perdere il biglietto, questo è il tipico viaggiatore che arriva in stazione di fretta, non può perdere il treno, non può perdere l'aereo, è il viaggiatore, il businessman per eccellenza, il quale deve guadagnare minuti. Quindi questa cosa è una semplificazione incredibile da parte di chi in effetti è abituato a girare non soltanto in Italia ma anche all'estero e quindi a utilizzare sistemi di pagamento alternativi al biglietto classico. Questa la intendete come una sperimentazione o è un servizio a tutti gli effetti? Avete già in progetto, in programma di estenderlo su altre linee? Le situazioni così innovative hanno sempre bisogno di contemplare all'interno del lancio del prodotto, in questo caso del lancio del servizio, un periodo di sperimentazione. Ci auguriamo che questa sperimentazione sia il più breve possibile, sia collaudata nel giro di qualche mese. L'idea e l'intenzione è di estenderla il più possibile, anche solo dalle principali città della Lombardia, per consentire a un pubblico sempre più vasto di affacciarsi a degli strumenti di pagamento sempre più innovativi. Questo rientra all'interno di un progetto che già in Regione Lombardia si chiama bigliettazione elettronica, un sistema di bigliettazione elettronica che vedrà la vita nei prossimi mesi e quindi diciamo il tutto all'interno di sistemi di pagamento innovativi. Ho parlato di sistemi di pagamento innovativi, ma parlo anche volentieri di sistemi di pricing innovativi, quindi proprio sul Malpensa Express a partire dal prossimo anno sperimenteremo anche un pricing innovativo che consentirà di acquistare il prodotto treno anche a distanza, anche utilizzando piattaforme di altri partner, ma semplicemente confermando quella che è l'esigenza di ognuno, ovvero l'acquisto 2 mesi prima, l'acquisto nelle ore di punta, l'acquisto fuori dalle ore di punta, il prezzo sarà ovviamente commisurato e il tutto sarà accompagnato da una vendita online, perché la digitalizzazione non sarà soltanto nel sistema di pagamento ma anche nel sistema di vendita. Certo, mi sembra di capire che dalle prime informazioni che voi avete questi sistemi piacciono molto, quindi i consumatori sono già avanti. È così, oggi è il primo giorno di fatto intero, questa mattina nelle prime 2 ore soltanto da Cadorna, dalla stazione di Cadorna, si affacciavano 56 clienti al tornello dedicato, quindi poche parole, un passaparola, un aiuto e un supporto da parte vostra che fate un lavoro egregio di diffusione e questa cosa sta prendendo veramente un radicamento che è del tutto inaspettato. Segno che il nostro cliente non solo è pronto per nuovi sistemi di pagamento, ma li aspetta. Esatto. Bene, grazie, buon lavoro e anche buone feste, visto il periodo. Grazie a tutti voi e auguri a tutti. È possibile utilizzare questo servizio sia con carte Mastercard che con carte Visa. E nel caso uno utilizzi un'applicazione, un'app sullo smartphone di questi circuiti di carte di credito per virtualizzare la carta di credito su uno smartphone con tecnologia NFC, Android di fatto, perché sappiamo che la tecnologia NFC sui terminali, cioè sugli iPhone, sui terminali Apple, è bloccata e controllata solo da Apple, quindi al momento stiamo parlando di Android, beh, è possibile passare sul tornello e quindi pagare il biglietto direttamente avvicinando lo smartphone. Dunque, esistono nell'area dei trasporti, quindi metropolitane e treni locali, Esistono solo 5 città che hanno già attivato servizi di pagamento contactless, che sono ovviamente Londra, di cui si parla da tempo, già da alcuni anni esiste un metodo di questo genere, Madrid, San Pietroburgo, Bratislava e Bucarest, e quindi Milano si allinea a queste esperienze. Speriamo insomma che questa iniziativa venga diffusa molto presto. Allora, il settore dei pagamenti è una delle espressioni più interessanti di un vasto movimento chiamato FinTech, una crasi tra Finance and Technology, quindi la tecnologia al servizio della finanza. Allora, per parlare di questo è con noi Pasquale Orlando, che è uno dei fondatori di Deus Technology. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico. Voi vi occupate di tecnologia e di finanza e quindi siete una delle aziende che fanno parte di questo, non so se magico mondo, straordinario mondo, che comunque sta cambiando molte delle dinamiche nel mondo finanziario, della tecnologia nella finanza, quindi del fintech. Qual è la vostra definizione di fintech? Che cosa significa per voi? Ma Enrico, fintech è sostanzialmente la tecnologia applicata ai modelli di servizio di un intermediario finanziario. Il fintech è in vari ambiti dei servizi che la banca opera. Nel nostro caso noi siamo focalizzati sul mondo degli investimenti. La verità è che il fintech è partito per esempio dai pagamenti, che sono stati rivoluzionati nel corso degli ultimi 3-4 anni, pensate ad Apple Pay. Si è esteso al factoring, per esempio, si è esteso ai mutui. Insomma, ci sono vari ambiti in cui questa tecnologia viene utilizzata. Certo, potremmo addirittura dire che la parola fintech è una parola nuova che stiamo utilizzando negli ultimi tempi, ma poi l'applicazione della tecnologia in questo mondo risale a 20-30 anni fa. Ricordo negli anni della bolla di internet a cavallo degli anni 2000, le prime piattaforme di trading, certo, online, ad esempio. Assolutamente d'accordo, infatti noi che siamo nel settore appunto da una ventina d'anni, abbiamo qualche capello bianco, consideriamo questa come la second wave, la seconda ondata, perché la prima è stata proprio quella di internet, e la caratteristica di questa seconda ondata è la mobilità, cioè il fatto che la tecnologia oramai l'abbiamo tutta in tasca, anche molto evoluta e come dire, disegnata in maniera molto usabile, molto semplice, molto fruibile. Questa è la seconda onda che sta trasformando vari settori, chiaramente, tra cui in maniera pesante le banche e il fintech, appunto. Sì. Sì, che cosa fate voi in modo particolare? Ma noi aiutiamo i nostri clienti, che sono banche, noi facciamo, sì, B2B, a implementare i loro modelli di consulenza in maniera tecnologica, usando tecnologie molto avanzate, tra l'altro, per dare servizi al cliente di alta qualità, di alta personalizzazione, ovviamente ad un costo contenuto. Sì, voi fate quello che gli esperti, gli addetti ai lavori, chiamano robo-advisory, o comunque tecnologie per erogare servizi di robo-advisory. Qui c'è anche in questo caso un mix di nomi. Robo sta per robot, robotics, comunque una cosa automatica, una cosa che fa una macchina. Advisory è la consulenza, quindi consulenza automatizzata. Tradotto, che cosa? Cosa fate? Ecco, noi consentiamo alla banca di portare a livello di singolo cliente le proprie competenze. Quindi una banca faceva e continuerà a fare le strategie di investimento e la selezione dei prodotti. La differenza è che grazie alla tecnologia questo viene reso disponibile, fruibile al cliente in maniera semplice ed immediata. Quindi noi aiutiamo la comunicazione di fatto tra cose molto complesse, come proprio la creazione di un portafoglio, e diciamo un cliente che queste cose non tanto le mastica. E se volessimo scendere un po' più nel dettaglio della tecnologia, che cosa fa questa tecnologia? Allora, questa tecnologia mischia diversi ingredienti che sono le strategie di investimento, che sono le asset class, quindi quante azioni, obbligazioni comprare, mischia le competenze nella selezione dei prodotti. Considera che una banca può avere pure 20.000 prodotti in consulenza, quindi non è banale scegliere tra questi, sono anche molto complessi a volte, e poi tutta una serie di vincoli che la normativa impone, sono molto forti, credimi, tanto forti, unitamente alle esigenze che un cliente ha della sua vita quotidiana, quindi del suo futuro, della sua famiglia, dei suoi figli e così via. Mettere insieme tutte queste cose non è semplice, ma il motore, il nostro motore di RoboAdvisory consente alla fine di tirare fuori per ogni cliente un portafoglio giusto per lui, che combina tutto questo, che non è banale. Di solito questo è il processo che un consulente finanziario farebbe impiegando dai 45 ai 60 minuti, diciamo così, per soddisfare la richiesta del suo cliente di consulenza, no? Noi lo facciamo in meno di un secondo. Quindi siete una tecnologia di aiuto a persone che poi continuano a fare il proprio mestiere, cioè che consigliano al risparmiatore nella banca: compra questo piuttosto che quest'altro. Ecco, qui entriamo nelle technicalities, cioè noi abbiamo facciamo da un lato il supporto al consulente, e quindi si chiama Robo for Advisors, questo certo. È il termine. Quando invece questo contenuto viene direttamente mandato al cliente, pensiamo a Che Banca per esempio, no? Sì. Yellow Advice di Che Banca, il cliente va sul sito e riceve direttamente la consulenza. Dei consigli proprio. Dei consigli proprio di acquisto e di vendita. In questo caso è un Robo Advisory. L'engine che c'è dietro è esattamente lo stesso, cambia chiaramente l'interfaccia, diciamo, che il cliente, nel caso del cliente, è molto più semplice, molto più intuitiva. Nel caso del banker o del promotore finanziario ci si può permettere anche cose un pochino più complicate. Cioè, essendo uno del mestiere, gli mettete a disposizione più strumenti che ovviamente sono più complicati da utilizzare, un po' come l'automobile è molto semplice, l'aeroplano è un po' più complicato, ma per guidare un aeroplano non si fa lo stesso percorso dell'automobile. Tu hai detto la banca fa e farà lo stesso mestiere. Tu da che parte stai tra quelli che entrano in questo mercato del fintech come innovatori e dicono: fra qualche anno facciamo tutto noi e le banche non ci saranno più, oppure le banche che stanno effettivamente, chi più chi meno, comunque anche in modo abbastanza complicato, cercando di trasformarsi? Allora, noi siamo dalla parte delle banche, perché noi nasciamo per aiutare le banche a diventare tecnologiche e a evolvere i propri modelli verso la tecnologia. La verità è che abbiamo avuto possibilità di avere a che fare anche con le fintech direttamente. È un mercato molto bello, molto affascinante, ma quello che sta, proprio l'evidenza empirica ci sta dimostrando, è che è un mercato che non sta decollando. Non c'è oggi una fintech al mondo che è in attivo, che è inutile. Cioè ce ne sono tante che sgomitano e quindi... Ma è un fatto di cultura, cioè i clienti sono alla ricerca dell'istituzione, del trust. Non si fidano ad affidare i propri soldi a società venute su, anche bravissime per carità, ma venute su dal nulla. Quindi c'è proprio un grosso problema di affidabilità, di percezione da parte del cliente. Non ci dimentichiamo che questo comporta il fatto che il costo di acquisizione di un cliente è molto alto, quindi le fintech hanno grosse difficoltà a fare numeri di conto economico. Oggi sono tutte in perdita, come cioè dicevo. Tu mi stai dicendo che, questo effettivamente l'ho visto anch'io in alcune ricerche, nonostante tutto quello che sta succedendo, perché se uno chiede al consumatore medio, al risparmiatore medio, che cosa pensa di una banca, non sempre escono cose positive, anche perché cronaca di tutti i giorni, molti dei disastri che stiamo commentando in questi mesi, in questi anni, sono dovuti a una cattiva gestione delle banche. Non tutte, perché alcune sono assolutamente competitive e in salute, però insomma, cioè, non è che hanno un pedigree fantastico. Però mi stai dicendo, come effettivamente dimostrano molte ricerche, che nonostante ciò i consumatori i soldi li mettono in banca. Quindi prima che una cosiddetta fintech, quindi una di queste nuove aziende che propongono modelli molto tecnologici basati solo sullo smartphone eccetera eccetera, fanno molta fatica ad acquisire il cliente. Fanno molta fatica perché la banca, con tutti i propri difetti, nella mente delle persone resta un'istituzione. Il loro affidano i loro soldi, i loro risparmi, il loro futuro all'istituzione. Il fatto di non avere anche la fisicità di una filiale eccetera, per una grossa parte dei clienti è un grosso problema, e questo sicuramente è destinato a cambiare nel corso del tempo, perché i nuovi millennials, le generazioni giovani, però oggi è così, si fa molta fatica. Io faccio solo un esempio: Betterment, che è una delle fintech più conosciute al mondo, negli Stati Uniti riesce a raccogliere 3 miliardi e mezzo, è veramente pochissimo se pensiamo a un mercato gigantesco come quello degli Stati Uniti. Quindi io penso che il futuro del fintech è dentro le banche, che dovranno evolvere per forza il loro modello di business per un motivo, sicuramente diciamo che si vogliono difendere dal fintech puro, ma poi ci sono motivi normativi anche che le spingono all'evoluzione anche tecnologica e chiaramente motivi di efficienza di costo che oggi come oggi sono molto importanti in quanto fare ricavi è difficile, quindi bisogna per forza tagliare costi. Certo, recentemente una persona che lavora in un settore tecnologico di una banca addirittura mi ha detto uno dei temi nel mondo bancario è se ha ancora senso fare banca, visti i tassi praticamente a zero, visti tutti i problemi del mondo che conosciamo. Senti, tornando alla tecnologia, quali sono le tecnologie emergenti più interessanti in questo mondo? Allora, noi in questo mondo vediamo due tecnologie importanti, quella dei big data, degli analytics, che non sono innovative, attenzione, cioè il mondo del consumer le usa da tantissimi anni, però invece nel mondo delle banche abbiamo iniziato a utilizzarle da poco tempo. Quindi l'analytics permette di analizzare il comportamento del cliente e di determinare un suo profilo comportamentale, sulla base del quale io posso fare a lui delle proposte mirate proprio su di lui, diciamo, molto personalizzate. Nel mondo finanziario il fatto che ci siano così tante regole e quindi le banche non possano raccogliere i dati come fa Facebook è un problema. È un problema, però nonostante... È una tutela del risparmiatore sicuro, però... È una tutela del risparmiatore, ma c'è anche un tema culturale. Le banche manco lo chiedono l'autorizzazione al cliente che pure volesse darlo a raccogliere i dati, perché ad oggi non sono ancora nel mood, nella predisposizione di poterli utilizzare, questi benedetti dati. Però il futuro è lì. Il fatto di avere il cliente ha un suo ciclo di vita e la banca deve conoscerlo per offrirgli i servizi giusti al momento giusto. Quindi oggi si usano base dati che sono quelle dentro la banca, di tipo anagrafico, di tipo anche proprio come ha sviluppato la sua storia di investimento e di transazioni con la banca. Domani noi ci aspettiamo sicuramente la possibilità poi di agganciarci al mondo esterno e quindi anche social, Facebook, Twitter e tutti quelli che conosciamo. Questo è un primo ambito dei big data che vengono utilizzati negli investimenti. Noi siamo tra i pochi in questo momento che si sono spinti fino a questo livello, per la verità. E vengono anche utilizzati per esempio nell'ambito dei crediti, no? Per scoprire quali sono le persone che meritano più affidamento rispetto ad altre e così via. Sì. E questo è un primo ambito, big data. Il secondo ambito invece è quello che si chiama del chatbot come concetto, cioè servire il cliente in maniera automatizzata anche nel rispondere a delle domande più o meno complesse. In questa fase ancora domande semplici, sempre di più questi sistemi si evolveranno per rispondere a domande più complicate. Non ci aspettiamo però la sostituzione completa di una persona, perché c'è un secondo livello, un livello di servizio, di domande a cui rispondere molto complesse, sulle quali difficilmente una macchina riuscirà a sostituire l'uomo. Però... Cioè, quindi da questo punto di vista tu ti aspetti che almeno tutta una prima parte, un primo livello di esigenze, di domande semplici tipo posso fare il bonifico il tal giorno oppure posso farlo di domenica il bonifico, ecco, queste cose otterranno una risposta da una macchina. Assolutamente sì. E tornando all'uso dei big data, che io ultimamente comincio a chiamare very big data perché sono sempre più grandi, la quantità di dati è sempre più grande, puoi farmi un esempio di come ti immagini il miglioramento del servizio grazie alla capacità di analizzare i dati? Sì, guarda, immaginati un cliente che ha una sua storia di investimenti con la banca, no? Semplicemente se io vado ad analizzare in alcuni periodi storici, cosa in cui la borsa per esempio è crollata, cosa ha fatto questo cliente, io riesco a capire per esempio il suo livello di emotività, il suo livello di razionalità sugli investimenti chiaramente, e il suo livello di anche conoscenza e di come si sente a suo agio in certi momenti di mercato. Questo mi permette di stilare un suo profilo comportamentale. Vuol dire che se domani mattina la borsa fa meno 5, io posso essere proattivo nei suoi confronti e attivare un processo di comunicazione che dice: caro cliente, non ti preoccupare, sto, come dire, tenendo la situazione sotto controllo e anzi ti suggerisco di fare queste 5 operazioni che ci mettono al riparo, no? Questo cambia moltissimo anche il modo in cui il cliente percepisce, perché lui si sente seguito, coccolato e capito dalla sua banca, no? Quindi semplice esempio che... Certo, ci sono già delle banche che fanno queste cose. Allora, al momento ci sono in Italia un paio di progetti su fatti in questo modo e abbiamo tre o quattro banche anche all'estero che si vogliono incamminare su questo percorso, anche perché le tecnologie di analisi dei dati, gli analytics, diciamo, sono già presenti dentro le banche in altri ambiti, quindi sarebbe solo un'estensione. Certo. Tu pensi che, tornando ad una cosa che hai detto prima, sarà effettivamente possibile, quanto possibile, utilizzare per fare il servizio di banca tutti i dati che noi in qualche modo lasciamo in rete? Quindi quelli che vengono utilizzati per profilarci, per lanciarci messaggi pubblicitari più o meno personalizzati, poi anche qui le tecnologie, se vengono usate male, i messaggi sono sbagliati. Perché il tema di come vengono utilizzate le tecnologie è un tema, ma ne parliamo un'altra volta in un'altra puntata. E se pensiamo, appunto, ne parliamo spesso a 2024, ci sono un sacco di dati che noi diamo senza quasi pensarci alla rete, o lasciamo anche inconsciamente, che ne so, le fotografie. Quante cose si possono capire facendo l'analisi delle fotografie, dove siamo stati, con chi siamo stati, se siamo solitari o se siamo sempre in famiglia. Un sacco di cose. Ma diciamo, è un fatto ovviamente solamente puramente normativo, tutta la normativa sulla privacy e quant'altro. Dal punto di vista tecnologico noi siamo assolutamente pronti a gestire moli immensi di dati. Oramai tecnologia dei big data esiste da più di 10 anni, quindi non è che ci dobbiamo inventare, ed è molto migliorata nel corso del tempo sugli aspetti di database, di analisi dei dati e così via. Quindi è un fatto puramente normativo, come ti dicevo prima. Però, quindi non tutto si può utilizzare? No, oggi no. Oggi le banche sono, diciamo, abbastanza preoccupate da utilizzare dati esterni alla banca, social e quant'altro, proprio per evitare conseguenze. Sì, sì. Non ci scordiamo che nelle banche esiste un dipartimento che si chiama compliance. La compliance, che tradotto vuol dire quanto sono coerente con le norme, cioè quanto rispetto le norme, quanto sono rispettoso delle norme. Rispettoso delle norme. La compliance, tendenzialmente, quando c'è un vuoto normativo, non si parla in maniera specifica di una cosa, tende ad essere conservativa. Quindi, come dire, anche il processo di innovazione per alcuni aspetti deve tener conto di queste, di queste cose. Sì, sì. Questo ci dice anche di quanto, non dico vecchie siano le leggi, o comunque fatichino a normare il nuovo, perché mi viene in mente quante volte abbiamo sentito le telco, quindi le società di telecomunicazioni, prendersela con i famosi over the top, quindi Google, Facebook, eccetera, eccetera, perché loro possono usare i dati in un certo modo e anche le società di telecomunicazione sono sottoposte a normative molto stringenti, per cui tanti dati non li possono utilizzare con quella facilità. Perché? Perché stiamo parlando di un settore che esiste da 100 anni e invece questi sono arrivati l'altro ieri, anche se in realtà ormai sono alcuni anni, però le norme ancora non hanno capito quasi nulla di come normare, quindi un po' un mercato grigio. Poi adesso io l'ho un po' enfatizzata, l'ho un po' esagerata. Ma concordo, potremmo fare una trasmissione su l'efficacia e l'efficienza della MiFID, cioè della regolamentazione sul processo di investimenti, che è veramente, come dire, opinabile su certi aspetti. Cioè, vi do solo un'idea: l'utilizzo dei big data e degli analytics permette di fare un profilo per ogni singolo cliente. Quindi non ho più necessità di clusterizzare, cioè di creare dei gruppi omogenei di clienti. La MiFID è ancora rimasta a 4, 5, 6 gruppi di clienti. Quindi voi immaginatevi quanto una base enorme di persone diverse tra di loro, eccetera, eccetera, sia logico inserirle in 4, 5 gruppi e basta, no? Quindi su questi temi anche la norma è indietro. Diciamo. Devo dire, per onestà, e ho assistito recentemente in un convegno a un intervento di Consob, quindi l'Authorities italiana, sul tema della consulenza e sul tema del robo advisory, e ho trovato un'apertura veramente notevole. Cioè l'Authorities pensa che la tecnologia possa salvaguardare il cliente, perché la tecnologia in maniera automatica può monitorare l'andamento del portafoglio del cliente e può far scattare gli allarmi quando è necessario. chiaramente se questo dovesse farlo una persona non sarebbe così facile, no? Certo. Quindi la Consob dice alle banche: benissimo, dotatevi di modelli tecnologici, perché per noi questo è importante. Sì, è utile. Ti faccio un'ultima domanda in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione. Tutto ciò porta via posti di lavoro? Anche qui dipende molto. Allora, la tecnologia consente da un lato di essere di aumentare la produttività, perché riesco a servire più clienti e anche a raggiungere quei clienti che oggi non sono serviti perché troppo piccoli, quindi ha un valore per il cliente. Dall'altro è inevitabile, e lo sappiamo, che le banche dovranno licenziare, ridurre il personale, soprattutto in filiale, però c'è anche da dire che si sta creando questa nuova categoria di consulenti indipendenti, è stato anche lanciato l'albo e così via. Certo, che sarà... ricordo, scusa se ti interrompo, ma ricordo che noi a Radio 24 ce ne occupiamo spesso, Deborah Rosciani ha dedicato spesso trasmissioni ai consulenti indipendenti, mi piace moltissimo come idea, e quindi tu stai dicendo che questo offre anche delle opportunità, sei un ottimista. Sì, no, beh, sono ottimista e sicuramente offre delle opportunità a queste persone di riqualificarsi come consulenti indipendenti, ma è un'enorme opportunità anche per i clienti, che finalmente avranno la possibilità di poter scegliere tra chi è indipendente e chi non lo è, con tutto il bene e il male che questo negli entrambi i casi ha. Quindi questo per me è, come dire, in qualche modo penso che stiamo facendo anche un favore al risparmiatore, agevolando anche dal punto di vista tecnologico questa creazione di questa nuova categoria. Quindi non ho sensi di colpa, ecco. No, certo. Bene, io ringrazio Pasquale Orlando per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie mille. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete raggiungermi, è 2024, quindi 2024 è radio24.it. Trovate la nostra puntata anche in versione podcast, anzi consigliatissima, con tutte le nostre interviste in versione integrale. Approfitto per fare gli auguri di buone feste in questi giorni di festa. Ci sentiremo anche prima dell'inizio del 2017. Bisogna sempre nei primi giorni dell'anno abituarsi al nuovo anno, anche per scrivere le date. Dunque, adesso parliamo di uno dei fenomeni che ci accompagnerà nei prossimi anni, che accompagnerà, lo speriamo, tutto il nostro paese in fase di ripresa, di sviluppo, di un nuovo sviluppo verso le tecnologie che stanno digitalizzando le nostre aziende. Alcuni la chiamano industria 4.0, alcuni la chiamano fabbrica 4.0, manifattura 4.0, una evoluzione applicando le tecnologie che conosciamo oggi, di cui parliamo spesso a 2024, alla produzione industriale. Parliamo di sensoristica, il che si trasforma molto spesso nella internet degli oggetti. Parliamo anche di connettività, ma soprattutto e sempre più di software. Ma direi poi, sopra a questo, ci deve essere una trasformazione culturale. Dobbiamo trasformare le organizzazioni, i processi con cui vengono fatte le cose, perché se digitalizziamo solamente forse otteniamo meno di quello che potremmo ottenere cambiando proprio il modo di ragionare, di pensare, di produrre servizi o beni. Dunque, di questo ho parlato con Micol Filippetti, che è il fondatore e oggi l'amministratore delegato del gruppo Filippetti, che si occupa proprio di tecnologie, un importante system integrator che mette assieme varie tecnologie e ovviamente si occupa anche di tutti questi fenomeni che assieme stanno trasformando il settore produttivo anche in Italia. Ma il processo che è in atto è un processo di digitalizzazione del mondo lavorativo. Quindi quando si parla di Industry 4.0, noi lo reinterpretiamo o utilizziamo al nostro interno il termine digitalizzare il mondo del lavoro. Sino a poco tempo, non che non lo sia stato fatto sino ad oggi, ma si è lavorato soprattutto nell'andare a digitalizzare alcuni comparti del mondo lavorativo. Sicuramente tutti i comparti del mondo dell'ufficio si sono digitalizzati, della collaborazione fra persone si sono digitalizzate. Quando parliamo invece di mondo lavorativo di fabbrica, quando parliamo di mondo lavorativo di costruzione, il mondo lavorativo di servizi, lì la tecnologia ancora non è arrivata, sta arrivando a mano, soprattutto quella tecnologia che mixa o fa dialogare in una forma nuova, in una forma intelligente, le persone e quindi i processi associati alle persone con le informazioni che derivano dal mondo delle macchine, che siano macchine da produzione piuttosto che automezzi, piuttosto che edifici che parlano, eccetera. Quindi quello che è la nuova frontiera a nostro avviso è nel mondo della digitalizzazione, nel mondo del lavoro, è questo qui: integrare tutte queste componenti all'interno di un processo tipico della persona lavorativa. Senti, gli imprenditori, le aziende, dal tuo punto di vista, hanno compreso questa trasformazione? Ci sono aziende che sono sicuramente all'avanguardia, aziende che ancora sono alla finestra e stanno cercando di capire che cosa significa digitalizzare il mondo del lavoro, ci sono altre che invece ancora sono molto molto lontane. Uno dei temi fondamentali, secondo me, che c'è sul tavolo oggi è quello di comprendere che cosa significa, perché ancora sono molto spesso degli slogan, ma non si ha la reale percezione di che cosa significa sino a quando non lo declini in esempi concreti. Solo poche aziende, a nostro avviso, stanno in questo momento realmente metabolizzando qual è l'impatto della digitalizzazione nella loro organizzazione. Questo anche perché uno dei temi fondamentali è che i manager che oggi sono chiamati in azienda a fare queste scelte o a guardare più avanti non vengono dal mondo digitale, ma sono dei manager che vengono da altri settori. Quindi infatti una delle cose che tu dici, che condivido, è che dovremmo avere manager digitali. Oggi non ce li abbiamo e sicuramente la prossima generazione di manager sarà una generazione di manager digitale. Che cosa intendi però? Quali competenze deve avere un manager digitale? Innanzitutto non deve perdere come competenza, perché la prima competenza è quella associata al ruolo del manager, cioè al ruolo che ricopre in azienda. Quindi quella competenza specifica deve essere sempre mantenuta, e già è il primo punto, il primo pilastro. Il secondo tema è capire come, attraverso la sua competenza specifica, introdurre la digitalizzazione nel suo settore. Facciamo degli esempi, altrimenti poi diventa anche qui un dialogo solo di slogan. Pensate oggi a un responsabile della sicurezza sul lavoro. Ogni azienda, a prescindere dal lavoro che faccia, deve avere il proprio responsabile della sicurezza nel mondo del lavoro. Come cambia questo ruolo, che oggi è un ruolo fatto di carte, fatto di visite mediche, fatto di istruzioni al personale, no? Andare a comunicare quali sono le corrette procedure per fare il proprio mestiere, come cambia in un'epoca di digitalizzazione di questo processo? Cambia sostanzialmente molto, perché, facendo un esempio banale, se oggi quando in un cantiere le persone vanno e debbono seguire, hanno delle regole da seguire, oggi l'unica cosa che può fare il responsabile della sicurezza sul lavoro è mandare con loro qualcuno che in maniera visiva verifichi che quelle che sono le pratiche corrette da eseguire vengono poi fatte realmente, quindi con dispendi di costi di personale, eccetera. In un'epoca di digitalizzazione lo stesso identico mestiere lo fanno i sensori, ovvero i sensori che le persone portano addosso, gli strumenti che utilizzano, parlano fra di loro, conoscono quali sono i processi e in tempo reale avvisano se c'è un pericolo imminente oppure no, o il grado di pericolo che queste persone sono, tra virgolette, esposte. Cioè, banalmente, se capisco, il sensore messo, che ne so, in una cuffia per proteggersi dal rumore, mi dice se quella cuffia, nel momento in cui c'è il rumore troppo elevato, viene indossato oppure no. Perfettamente, questo è proprio un caso. Noi abbiamo sviluppato questo tipo di tecnologie in vari ambiti della sicurezza sul lavoro, ad esempio in una industria automobilistica monitorizza il corretto uso della maschera per non tanto gli odori, ma se viene indossata la maschera nel processo di verniciatura, perché molto spesso succedeva che le persone, per scomodità eccetera, abbassavano la maschera pur tenendola all'interno del corpo e andavano a effettuare poi operazioni con agenti chimici. E quindi noi riconosciamo se, ad esempio, il sensore riconosce posta all'interno della maschera se la maschera è indossata realmente oppure viene posta sotto o sopra eccetera. Ma la stessa cosa si fa con il caschetto, ad esempio in zone di cantiere, o si fa andando a controllare come vengono usati questi strumenti. Un esempio classico sono operazioni in quota, quindi quando una persona deve salire, che sia all'interno di un traliccio, di una qualsiasi altra struttura, deve indossare non solo gli strumenti di protezione come un'imbracatura o il pastorale eccetera, ma poi deve anche usarli secondo delle procedure corrette. Cioè, io non inizio la scalata se prima non ho agganciato la corda. Allora, ecco che un sistema intelligente, quando si parla appunto di digitalizzazione, si parla nel mettere insieme tutte queste cose. In realtà poi è ancora più vasto, perché se guardiamo il caso specifico della sicurezza sul lavoro, non basta solo controllare tutto questo, ma bisogna anche sapere se abbiamo fatto prima un corso alla persona su come usare quelle cose. Quindi c'è dietro tutto un percorso che inizia proprio dalla formazione, dall'istruzione e dal seguire nel controllo in campo. Tu mi dicevi prima che quando parlate di questi temi con gli imprenditori capiscono molto spesso, ma poi hanno un problema di implementazione. Hanno un problema di demandare la responsabilità, perché al loro interno molto spesso non sono in grado di tenerla. Facendo degli esempi, pensiamo alle costruzioni, perché è qualcosa che più facilmente tutti abbiamo di fronte ai nostri occhi. Quando costruiamo dobbiamo avere un magazzino dei prodotti che utilizziamo per la costruzione, no? Quindi che sia un magazzino fatto da mattoni piuttosto che strumenti, piuttosto che ferro, acciaio, o nel caso di impianti industriali, quindi un magazzino fatto di tubi o di pompe e quant'altro. Questo lo dobbiamo avere all'interno del sito prima di iniziare la costruzione. Bene, la gestione dei materiali nel mondo della costruzione è un tema importantissimo, perché finché che parliamo di siti piccoli è tutto semplice, ma quando parliamo della costruzione di siti o di industrie grandi, il tema dei materiali diventa un tema importantissimo, non dico solo nello stoccare questi materiali, ma nel farli arrivare quando servono, piuttosto che nel trovarli all'interno di un magazzino all'aperto così ampio. Quindi c'è tutta la nuova wave della digitalizzazione del material tracking, cioè della ricerca e del percorso con cui questi materiali arrivano all'interno del sito per poi essere utilizzati in fase produttiva. Oggi, nella maggior parte delle imprese costruttrici, tutta questa operazione è fatta manualmente. Noi abbiamo seguito alcune industrie, alcune imprese che ad esempio si occupano di costruire impianti nel mondo chimico o dell'oil and gas. Ecco, in un sito normalmente ci sono, che fanno questa attività di ricerca del materiale, dalle 100 alle 300 persone, ok, che vanno fisicamente in giro a cercare quella matricola, quel materiale dove sta, per poi andarla a prendere e portarlo. Certo, perché il montatore gli ha chiesto quella pompa, gli ha chiesto quel tipo di tubo, no, o di spooler o quant'altro. Ecco, pensare questa cosa qui in un mondo digitale significa cambiare completamente il processo, perché ogni materiale ha una sua etichetta, uso un termine che non è corretto nel gergo, però si intuisce bene ai più, che questa etichetta parlante, dove io riesco, ad esempio attraverso un volo radente di un drone, eccetera, a localizzare l'etichetta rispetto a una posizione fisica, e quindi il processo cambia totalmente, perché non c'è più qualcuno che cerca, tra virgolette, c'è qualcuno che richiede il materiale a cui viene data una posizione precisa di dove quel materiale, quello specifico item è, e riducendo l'impatto in termini sia di lavorativi che di tempistiche nel reperire materiale in maniera enorme, no? Eccetera. Qual è il tema che oggi le imprese si trovano ad affrontare? Che per fare questo la competenza che devono mettere in campo non è più quella del singolo che va in giro con gli occhi, no, a cercare il pezzo, ma devono conoscere i temi tecnologici, banalmente, quindi devono installare una rete, devono avere un sistema informativo dove vengono registrati i materiali e che poi geolocalizzi tutti i prodotti, devono avere dei palmari piuttosto che dei pezzi di carta, o devono avere delle competenze che molto spesso in quel cantiere non erano proprio presenti, erano, come dire, delle competenze inesistenti. Ecco che la digitalizzazione quindi introduce delle tematiche nuove che le imprese si trovano ad affrontare per la prima volta. In questo senso si trovano impreparate, perché non avendolo ancora interiorizzato come lavoro proprio, perché il loro lavoro era costruire, non gestire sistemi informativi, si trovano in questo limbo che rende questo passaggio ancora più complicato di quello che dovrebbe essere. Questo però ha un impatto indubbio sui posti di lavoro. Se guardiamo questa trasformazione a livello di paese, ha un impatto sulla qualità dei posti di lavoro? Sicuramente sì. Che cosa significa? Anche qui è evidente che se prima impiegavo 200 persone a fare un lavoro qualitativamente molto basso, poco ingegno, oggi vengono richieste delle professionalità che invece, dove l'ingegno, dove la capacità dell'individuo fa la differenza. Quindi è un tema, è vero, quantitativo, ma molto più qualitativo, perché trasformare la quantità in qualità è un processo complicato, un processo che non è banale né scontato. Certo, quindi se non siamo in grado di trasformare le competenze migliorandone la qualità, comunque il problema sui posti di lavoro ci sarà. È un tema sicuramente molto più complicato di quello che io potrei, sia nel modo con cui io potrei affrontarlo o semplicemente esprimere un'opinione. Quello che posso dire dal mio punto di vista imprenditoriale è che noi oggi facciamo una grande fatica nel reperire persone di qualità, persone non a livello umano, per carità, che fortunatamente l'Italia è piena, ma persone che abbiano compreso che il posto di lavoro, cioè le nuove tipologie di lavoro, richiede qualità, cioè quindi richiede un valore aggiunto da ogni singolo e non più un approccio passivo all'attività. Questa cosa non è una cosa che viene ancora insegnata o perlomeno le nuove generazioni sono tutti in grado di comprendere. A mio avviso andrebbe fatta molta più diffusione, molta più informazione di questo cambiamento che è in atto, perché solo se riusciamo a comprendere sino in fondo questo cambiamento riusciremo anche a cambiare il nostro paese, altrimenti non abbiamo altre strade che competere sul prezzo, e voi sapete tutti che quando si compete sul prezzo è una competizione al ribasso, come diritti, come qualità di vita, come qualità di luoghi in cui si vive, come possibilità di accedere, no, al benessere. Sicuramente questo è il tema. Certo, se le aziende non sono competitive, poi a cascata anche il paese sul medio-lungo periodo non è più competitivo, con tutti i problemi di cui abbiamo parlato, potenziali, che già in qualche caso si vedono già oggi. Due o tre esempi di che cosa significa Industry 4.0 o ancora meglio di digitalizzazione di processi in vari ambiti, in vari settori. Abbiamo fatto un esempio prima sulla sicurezza dei posti di lavoro molto semplice e intuitivo. Un altro esempio che vi posso portare è all'interno di un plant produttivo. Oggi si hanno tante informazioni disaggregate. Mi spiego meglio. Pensate a un'industria, sicuramente il responsabile di produzione sa quanti pezzi escono da un impianto, piuttosto che sa gli ordini che gli arrivano per il giorno successivo. Magari non conosce quanto sta consumando quell'impianto in termini energetici, magari non conosce o non riesce a comprendere se i macchinari che sta utilizzando su quell'impianto si stanno deteriorando o quando avranno bisogno di manutenzione. Magari oggi non ha una visione completa di come le sue persone lavorano su quegli impianti, di come la logistica porta i beni o i pezzi a quegli impianti. Quando si parla di Industry 4.0, dal nostro punto di vista, che cosa significa? Correlare, mettere insieme tutte queste informazioni in un modo più intelligente. Intanto c'è un tema sicuramente importante, che è quello di comprendere come l'uomo lavora con la macchina. Questa è una tematica oggi presente in tutte le industrie e ha un effetto diretto sulla qualità del lavoro che fa l'uomo. Perché banalmente oggi io non ho uno strumento che mi dice se anche solo il percorso, quindi il layout di fabbrica rispetto a come la fabbrica si è evoluta nel tempo è ancora corretto oppure no. Perché io non ho un metodo per tracciare, o meglio, per avere informazioni su come si muovono gli spostamenti all'interno della medesima, sia in un ambito logistico che in un ambito proprio operativo. Tanto più non ho la correlazione, nel discorso che facevo prima, nel comprendere se un macchinario ha bisogno di manutenzione oppure no. Ecco, questo perché? Perché fondamentalmente le informazioni, se esistono, dove esistono, sono estremamente frazionate e disperse. Quando si parla di Industry 4.0, noi lo interpretiamo in questo senso, cioè quello di correlare tutte le informazioni in un modo nuovo. Ovvero, se io, facendo un esempio, la manutenzione predittiva di un macchinario, se quel macchinario so che ha un certo consumo per ora per unità prodotte, se a non variare, quindi a parità di unità prodotte e di tempo, variano i consumi, significa che quel macchinario probabilmente ha qualcosa che non va. Quindi devo intervenire. Ecco che questa informazione diventa un'informazione nuova per l'azienda, perché usualmente il consumo fa capo al facility manager e non al responsabile di produzione, il quale non vede il consumo elettrico come un elemento a lui importante. Al facility lo vede però in un'ottica solo di riduzione di costo generale, ma non in un'ottica di aumento o di produttività dei macchinari. Questo semplice esempio ci dà il senso di che cosa significa correlare le informazioni in un modo nuovo. Riuscire a fare predizione, riuscire a capire che cosa potrebbe accadere e intervenire prima che questa accada per dare un vantaggio competitivo all'impresa. La stessa cosa sul lavoro e sulle persone. Molto spesso in alcune tipologie di industrie noi abbiamo anche i macchinari che cambiano forma e quindi si innescano in modo diverso a seconda delle tipologie di produzioni. Capire l'incidenza che ha il lavoro umano all'interno di questo processo, riuscirla a quantificare, riuscire a determinare qual è l'effort per produrre ogni singolo pezzo, sicuramente potrebbe dare un'indicazione all'industria di quali sono i prodotti a maggior reddito da quelli che sono prodotti a meno reddito. Oggi molto spesso si ha un senso generale e non nel particolare. Riuscire ad avere il dato particolare può rendere più competitiva l'impresa, perché magari abbandona i prodotti a minor reddito e si concentra solo sui prodotti a maggior reddito, o semplicemente varia il listino prezzi. Quindi le tematiche in questo ambito sono veramente innumerevoli. Adesso cambiamo argomento, ma non troppo, perché parliamo di ascensori, di scale mobile, di cose che siamo abituati a utilizzare molto spesso nella nostra vita, chi più, chi meno. E in qualche modo anche questo settore si sta trasformando verso la industria 4.0, la Internet degli oggetti. Saluto Luigi Maggioni, che è il CEO, l'amministratore delegato di ThyssenKrupp Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Pochi sanno, almeno io non lo sapevo, che l'Italia è il mercato numero uno al mondo per gli ascensori. Cosa incredibile. Assolutamente sì. Mercato ascensoristico mondiale ha più o meno una dimensione di 12 milioni di impianti installati. In Italia sono installati 1 milione di impianti, quindi un numero enormemente più grande rispetto anche ai super colossi, per esempio Stati Uniti, Cina, India e paesi emergenti, Brasile. Certo, uno va in un'altra nazione, tipicamente va in una grande città e in alcuni luoghi le città sono piene di grattacieli e pensa che lì ci siano un sacco di ascensori. In realtà noi abbiamo una tipologia di case che sono molte città delle palazzine e tutte hanno un ascensore. Assolutamente. Quindi per questo che siamo il numero uno. Questo, sì, assolutamente. Le nostre palazzine tipicamente, iniziando già dai 3 piani, abbiamo già anche 2 ascensori per ogni palazzina. Se andiamo negli Stati Uniti abbiamo dei grattacieli di 50 piani nel quali sì, ci sono anche 6 ascensori high rise, quindi quelli che arrivano molto in alto e sono anche molto veloci, però in 50 piani ci mettiamo tante palazzine da 3 piani, diciamo. Certo, se facessimo un conto di metri lineari, probabilmente altri stati hanno degli ascensori talmente lunghi, talmente alti, che forse ci battono. Però come numero di impianti siamo il numero uno. Abbiamo però degli impianti vecchi e quindi c'è una prateria, immagino, per tutti i produttori per rinnovare il parco nei prossimi anni. Il mercato si sta muovendo o con difficoltà? Diciamo che il mercato su scala mondiale si sta muovendo e il trend di crescita del mercato ascensoristico su scala mondiale è anche molto forte. È guidato principalmente dall'urbanizzazione delle città. Questo ovviamente su scala mondiale. Oggi il 40% della popolazione mondiale vive nelle città. Si stima che nel 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà all'interno delle città. E quindi di qui vediamo che ci saranno dei nuovi principi di costruzione per mantenere il giusto equilibrio tra la crescita della popolazione urbana e le necessità individuali, e quindi una crescita delle città verso l'alto. Ovviamente certo. L'Italia è un po' diversa. In Italia questo processo di urbanizzazione già è avvenuto. Quindi sì. Siamo già al 75% della popolazione nelle città. Cioè qua bisogna sostituire cose che già esistono. Perfetto. Più che costruirne delle nuove. Perfetto, qui deteniamo, oltre al primato degli ascensori, del maggior numero di ascensori installati, teniamo anche il primato degli ascensori più vecchi, diciamo, come tipologia di parco. Il 60% degli ascensori installati ha più di 30 anni, quindi assolutamente in molti casi ricorre la sostituzione completa dell'impianto. Comunque sì, questo trend che lei ha citato è un trend molto interessante, che è quello delle grandissime città, delle mega cities che ci saranno nei prossimi anni, che saranno piene di palazzi sempre più grandi, e sappiamo benissimo che in certi posti stanno costruendo grattacieli molto grandi che si riempiranno di ascensori. A proposito di tecnologia, visto che qui parliamo di tecnologia, e a proposito di Internet degli oggetti, voi avete presentato una soluzione che di fatto rende l'ascensore connesso, quindi non ci sono solo altre cose che si connettono alla rete, ma anche gli ascensori. Che cosa fa questo strumento? Assolutamente. ThyssenKrupp circa 3 anni fa ha siglato una partnership con Microsoft e in questi ultimi 3 anni ha sviluppato una serie di prodotti e di progetti che ora sono finalmente arrivati a vedere la luce e che stanno iniziando ad essere distribuiti sul mercato. Primo tra tutti quello che citava lei, ovvero Max, Max è un prodotto, è una sorta proprio di scatola elettronica che viene collocata su ascensori, su scale mobili, su tappeti mobili, e che è collegata in tempo reale a quello che viene definito l'Internet of Things, e quindi trasferisce tutte le informazioni di un ascensore, di una scala mobile all'interno di una cloud, quindi all'interno di una nuvola, e si iniziano a recuperare tutti i dati basilari dell'utilizzo di questo ascensore, facendo sì che ovviamente dopo aver raccolto un certo numero di informazioni per poter avere dei calcoli statistici, si inizierà a non più ad avere una tipologia di manutenzione programmata, ma una manutenzione preventiva. Quindi si inizieranno a studiare delle casistiche, per esempio ogni 1000 chiusure di porte la porta si blocca, e quindi alla 900esima magari si può intervenire prima che si chiuda la porta. Quindi si inizia ad avere, studiando degli algoritmi, si iniziano ad avere delle casistiche per ogni singolo componente di un ascensore, tale per il quale è possibile effettuare una, come diciamo, una manutenzione programmata. Certo, poi se uno riempie l'ascensore di sensori, capisce se, adesso io non conosco come è fatto un ascensore, però se ci sono delle parti che magari si stanno logorando, che si stanno rompendo, e quindi la manutenzione preventiva serve anche per questo motivo. Altre cose tecnologiche che esistono sul mercato che stanno arrivando? Altre cose tecnologiche, diciamo un altro strumento di lavoro altamente tecnologico che è stato lanciato da ThyssenKrupp nel World Trade Center di New York non poco più di 2 mesi fa. Sì, della nuova torre, il One World, nel nuovo World Trade Center. Yes. Diciamo. Sono le HoloLens, ovvero sono degli occhiali sempre studiati in seguito alla partnership ThyssenKrupp Microsoft, degli occhiali che proiettano una realtà aumentata, che possono essere utilizzati dal tecnico durante la fase di manutenzione. E grazie a questi occhiali, sostanzialmente grazie soprattutto alla realtà aumentata che deriva dal gaming, quindi dai giochi famosi, viene utilizzata dal tecnico per avere dei supporti, per esempio in remoto, per poter scomporre, vedere in realtà aumentata alcuni pezzi dell'ascensore, per capire qual è il corretto funzionamento, se sono ben installati, possono scorrere per esempio le informazioni relative alla procedura da seguire durante la fase di manutenzione o di una riparazione particolare specializzata, o avere un supporto tecnico in remoto con una chiamata Skype. Quindi potendo avere le mani libere, quindi in estrema situazione di sicurezza, possono tranquillamente svolgere il loro lavoro, supportati per esempio da un training center in remoto in qualunque parte del mondo. Quindi il vantaggio principale qual è? Il vantaggio principale è di poter ridurre il tempo di intervento su un ascensore, e quindi essere ancora più efficace e più efficiente per il cliente finale. Cioè, quindi non è che vado più velocemente sul luogo della riparazione, ma quando sono sul luogo della riparazione mi arrivano delle informazioni. Beh, però se un tecnico è bravo non dovrebbe avere, no? Assolutamente, se un tecnico è bravo, però ci sono tante casistiche che si possono verificare, delle più svariate, e per esempio attraverso questi occhiali si possono effettuare già ordini di pezzi di ricambio, quindi si può velocizzare comunque tutto un processo, una procedura che consentirebbe così anche al pezzo di ricambio di arrivare più velocemente e di essere ordinato più velocemente, anziché con il metodo tradizionale, ovvero la bollettina cartacea che viene firmata dal condomino in questo caso, e poi il tecnico quando arriva in azienda la deposita, e così parte tutto il ciclo di ordine. Quindi velocizza molto le attività sul campo. Li usate già? Nel corso del 2017 li utilizzeremo anche qui a Milano. Abbiamo un progetto di iniziare nel 2017 con Milano un primo test in Italia. Altre cose tecnologiche che state pensando? Perché uno pensa alla scala mobile, all'ascensore, al tappeto mobile, e dice vabbè, ma che cosa si può innovare? In realtà la ThyssenKrupp proprio nel campo tecnologico ha sviluppato tanti prodotti estremamente innovativi, e proprio negli ultimi anni sono stati lanciati prima il Twin, poi l'Axel, e non poco più di un anno fa il Multi. Il Multi potrebbe essere definito oggi forse il prodotto più tecnologico che spero invaderà i mercati e di cui gli architetti si innamoreranno per costruire gli edifici del futuro. futuro. Che cos'è? Il multi è sostanzialmente una soluzione senza funi, quindi è un ascensore senza funi ed è progettato per viaggiare in loop con più cabine all'interno del medesimo vano, quindi raddoppiando la capacità di trasporto e dimezzando il consumo energetico dell'edificio. Quindi viaggiando senza funi e viaggiando quindi su una sorta di binari, le cabine che viaggiano in loop possono viaggiare sia in verticale che in orizzontale, e diciamo questa è la più grande innovazione possiamo dire del settore ascensoristico. Ed esiste già, si potrebbe installare. Diciamo che ora, a dicembre del 2016, quindi alla fine di questo mese, verrà inaugurata la nuova test tower di Rottweil in Germania, dove verrà definitivamente installato a grandezza naturale il primo prototipo di questo multi. Ci sono state altre inaugurazioni di questo prodotto e altri test, ma sono state fatte con dei prototipi in scala, quindi il primo prototipo, diciamo, che già da gennaio 2017 potrà iniziare ad essere visto a dimensione naturale. Molto bene, ringrazio Luigi Magioni per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie. Allora, questo multi è sicuramente una innovazione molto interessante. Se voi andate su internet, fate una ricerca scrivendo ThyssenKrupp multi, trovate dei video che vi raccontano e spiegano, illustrano come funziona. È una, se volessimo tradurre, utilizzare un'immagine, una specie di metropolitana, queste cabine degli ascensori che sono in fila e si muovono lungo questi condotti all'interno del palazzo. Molto molto interessante, una bella novità. È tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Torniamo la prossima settimana con alcune interviste che abbiamo ascoltato e abbiamo proposto durante l'anno. Però io sono sempre qui, quindi se ci sono notizie importanti della settimana vi daremo conto anche di quelle. Come sempre, anche questa versione podcast del nostro programma vi è offerta con tutte le nostre interviste in versione integrale. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Buone feste a tutti, per il buon anno ci risentiamo la prossima settimana.